nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 6 dicembre, il sole in regione è sorto alle 7.24 e tramonterà alle 16.39. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Maria Spezia. Il settore lattiero-caseario in Friuli Venezia Giulia tiene alle spallate della crisi, anche se il prezzo del latte è poco sopra quello dei costi di produzione. E così gli allevatori sperimentano soluzioni alternative, quali caseifici aziendali, il conferimento alle vecchie latterie sociali e chi può l'andare in malga. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi al corsivo di Enos Costantini, che ci racconta come un tempo anche la città contribuisse alla fertilizzazione dei campi. Vino, cantina e rivoluzione digitale nella rubrica delle normative e la potatura del pero in quella della frutticoltura. All'Università di Udine si sperimentano nuove api resistenti ai parassiti e ugualmente produttive, mentre nella rubrica dei giardini avremo la descrizione di quello di Vistorta, progettato da un paesaggista di fama mondiale, Russell Page. Andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo per la settimana entrante, il proverbio frulano della settimana, chiudono la puntata. Nonostante mille difficoltà, il settore del latte in Friuli Venezia Giulia sta tenendo su dei prezzi bassi, ma sta anche cercando nuovi canali di distribuzione per salvarsi. Ne parliamo con Renzo Livoni, che è il presidente dell'Associazione degli Allevatori del Friuli Venezia Giulia. Su che prezzi stiamo andando? Purtroppo il discorso dei prezzi è al ribasso. Dobbiamo tener conto che già da 2 mesi si era paventato questo discorso ed è purtroppo da parte delle industrie di trasformazione è stato effettuato. Un altro taglio che non ci voleva, perché sapete benissimo che il prezzo di adesso, 35-36 centesimi, è diciamo sulla soglia per certe aziende nostre del costo di produzione. Auspico che con l'entrata del nuovo anno questo venga ritoccato verso un aumento, però da quello che ho sentito parrebbe di no. Vediamo in pratica l'evolversi. C'è qualcuno che sta speculando? Certamente, e l'effetto purtroppo noi dipendiamo moltissimo dalla grande distribuzione, non abbiamo nessun potere contrattuale, dobbiamo purtroppo prendere sempre atto di queste situazioni. I 35 centesimi che noi prendiamo, poi andando nei banchi della grossa distribuzione vediamo che viene triplicato addirittura, da 1,30 in poi lo troviamo. Però noi non possiamo assolutamente in questo caso far niente. Però ci sono delle tendenze per uscire da questi condizionamenti della grande distribuzione. Ci sono per esempio i microcaseifici familiari, un ritorno alle latterie sociali turnarie e la valorizzazione delle malghe, del lavoro in malga. Partiamo da questi microcaseifici. È chiaro che qui l'allevatore deve mettersi in campo anche come capacità di commercializzazione, quindi sotto profilo economico non è che richieda grandi investimenti. In pratica, dai dati che mi sono stati dati dall'ufficio di latte qualità, da 5 anni a questa parte la duplicazione di aziende che si immedesimano nel ruolo di fare mini caseifici sociali. E poi ritornano in auge le mitiche e storiche latterie sociali turnarie. Certo, c'è da parte di qualche allevatore che una parte della propria produzione destinata all'industria la mette proprio in trasformazione e creando anche un posto di vendita al loro interno. Parlo sempre però di riferimento alle aziende medio-piccole. Ecco. E poi chi ha formaggio fatto bene in malga non sa come resistere a chi lo vuol comprare. Io parto sempre dall'esperienza dell'associazione che diciamo ha in gestione la malga Montario. Noi ne avessimo di formaggio del genere, non hai problemi a venderlo e anche sotto ottimi prezzi. E vedo anche allevatori, soprattutto quelli carnici che hanno in dotazione le malghe, riescono a fare ottimi risultati, quindi avere anche ottimi prezzi. Ritorniamo al discorso prezzo per chiudere. Le sembra giusto che per prendere una pallina di gelato servono più di 3 litri di latte? Questo purtroppo è quello che mi rammarica. Io avessi la bacchetta magica e riuscire a riportare un po' quello che era il Friuli una volta, no? Dove in pratica l'80% del latte era consegnato in piccole latterie cooperative e dove c'era un potere, diciamo, più di controllo da parte degli allevatori. Quello adesso noi purtroppo manca e ne dobbiamo pagare purtroppo le conseguenze. È chiaro che non dobbiamo desistere, dobbiamo impegnarci e trovare quindi anche maggiore gratificazione per il lavoro che facciamo, che ci vede impegnato 24 ore su 24. Forse non tutti sanno che un tempo, certo non remoto, anche la città collaborava per la fertilizzazione dei campi. Ci dice tutto Enos Costantini nel corsivo di oggi. Gli insediamenti umani stabili sono nati grazie all'agricoltura, la quale ha consentito di mantenere persone in residenza fissa, quali artigiani, burocrati, nobili, preti e poi anche borghesi. Fino a non molti anni fa, paesi e città hanno contribuito all'agricoltura riversando nel contado le deiezioni solide e liquide che gli umani producevano assieme agli animali inurbati. Tali fertilizzanti sono seriamente trattati nei volumi di agronomia, dove prendono nomi quali pozzo nero e cessino, ed entrano in accurate tabelle che ne riportano i contenuti in macroelementi. Nei nostri ricordi d'infanzia rimane la giornata in cui si svuotava il pozzo nero, il quale spesso, anche se non sempre, coincideva con quello della stalla. Alla bisogna provvedeva una persona in ciò specializzata che maneggiava con disinvoltura un lungo manico alla sommità del quale era fissato un elmo dell'esercito tedesco. L'importante era che il lavoro finisse con congruo anticipo rispetto all'ora di pranzo o di cena, in modo tale che il carbonato di ammonio e gli altri gas volatili, azotati e sulfurei avessero il tempo di diluirsi nell'etere cosmico, lasciando un più spirabile aere. Se la famiglia era borghese, il prodotto veniva messo sul mercato e commerciato da esperti sensali, i quali, non potendo contare sulla spettrometria di massa, usavano il senso del gusto delegando alle papille gustative una stima sintetica della qualità. In un aureo libretto dell'anno 1920, il professor Domenico Tamaro dedica un intero capitolo, colmo di dati, alla utilizzazione per concime dei materiali di rifiuto della città di Trieste. Tra questi, le spazzature, le carogne di animali e soprattutto il pozzo nero. 5 quintali annui per abitante per un totale di 1 milione di quintali. Ciò corrispondeva a 5.000 quintali di azoto, 2.700 di anidride fosforica e 2.900 di potassa. Il professor Tamaro lamenta che di tale ricchezza venisse raccolta solo la parte solida, pari a un decimo del totale, mentre le urine, uno straripante 9 decimi, finissero nel mare con il loro 6% di azoto. Il professore fornisce una serie di consigli pratici ed igienici, rivolgendosi in particolare all'amministrazione comunale, per recuperare almeno parzialmente tanta ricchezza che, da sola, avrebbe sostenuto la produzione di frutta e verdura per l'intera città. Non si vuole qui ora trarre una stantia morale da ciò. Si vuole, anzi, dare una buona notizia, una notizia di speranza. Qualora i tempi lo richiedessero, si potrebbe sempre contare sui consigli del professor Tamaro e il suo aureo libretto dell'anno 1920. Da qualche anno il comparto vitivinicolo è protagonista di una vera rivoluzione digitale. Sulle ultime novità ci aggiorna Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. Da sempre il comparto vitivinicolo è gravato da un enorme carico burocratico. Le ragioni sono diverse e storicamente hanno a che fare con la necessità di controllo delle eccedenze di produzione e con la prevenzione delle frodi alimentari. Avranno forse fatto di necessità virtù? Fatto sta che oggi i produttori di vino sono sicuramente all'avanguardia in fatto di informatizzazione delle procedure amministrative. La vera svolta c'è stata nel 2017, quando, pur tra mille dubbi e preoccupazioni, sono stati abbandonati i registri di cantina cartacei per passare a quelli totalmente dematerializzati sul SIAN, cioè il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, obbligo che ha riguardato tutte le cantine al di sopra dei 50 ettolitri di produzione. Quali sono le ultime novità in fatto di dematerializzazione? Con un decreto dello scorso ottobre, il capo dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Repressione Frodi ha introdotto nuove disposizioni in materia di documenti di accompagnamento per il vino. La novità più rilevante riguarda i piccoli produttori, quelli non titolari di deposito fiscale, che a partire dal prossimo 1 gennaio dovranno obbligatoriamente emettere documenti telematici, denominati MVVE, per tutte le spedizioni intracomunitarie e per le esportazioni con transito comunitario. Non cambia nulla invece per i trasporti di prodotti vitivinicoli in ambito nazionale, per i quali sarà ancora consentito di utilizzare i documenti MVV cartacei o altri documenti emessi ai fini fiscali come il classico DDT o la fattura accompagnatoria. L'emissione del documento di trasporto telematico è cosa complicata? Come tutte le novità, richiede all'inizio un minimo di applicazione, ma è alla portata di tutti. L'amministrazione ha messo a disposizione sul SIA una procedura totalmente gratuita e completa manualistica. Se poi il numero di spedizioni è elevato, quasi tutti i gestionali utilizzati per i registri di cantina sono anche predisposti per la generazione di MVV telematici e per l'interscambio dati con il SIA. Dopo aver parlato di peri e pere, oggi il professor Raffaele Testolin, che insegna frutticoltura all'Università di Udine e ci cura questa rubrica, ci parla di come potare il pero, che lui dice è una roba da ragazzi. I miei studenti all'Università di Udine non si offendono quando dico loro scherzando che un pero lo può potare anche uno studente. In effetti, al pero si può fare di tutto senza che se ne abbia male. Osservate una pianta di pero d'inverno. Se è cresciuta bene, senza sofferenze inflitte da estati siccitose, è piena di rami vigorosi a sorgenti. Bene, si eliminano tutti e il grosso della potatura è fatta. Se poi c'è una zona dell'albero un po' spoglia, uno di questi germogli vigorosi lo si accorcia a 20-30 cm. La primavera seguente emetterà uno o due germogli nuovi e formerà delle gemme che daranno frutti l'anno successivo. Eliminiamo un po' di formazioni fruttifere vecchie, quelle che gli esperti chiamano zampe di gallo per la loro somiglianza con le zampe del pennuto, e la potatura si conclude lì. Un pero, come il melo, da solo non produce frutti. Deve essere impollinato da un'altra varietà e quindi in giardino o si mettono almeno due varietà di pero diverse tra di loro in modo che si impollinino una con l'altra e diano frutti entrambe, oppure bisogna sperare che un vicino di casa abbia avuto la brillante idea di mettere a dimora anche lui un pero di una varietà diversa dalla nostra. Un'altra cosa importante quando si decide di acquistare una pianta di pero è la scelta del portinnesto. I produttori professionisti amano il pero innestato su cotonio perché è meno vigoroso e può essere piantato a densità elevate nei frutteti industriali. Anche per l'amatore, un pero innestato su cotonio può andare bene se il terreno profondo è molto fertile. Se invece abbiamo a che fare con i terreni magri della media pianura friulana, allora è meglio chiedere un pero innestato su franco, cioè innestato su un pero vero e non su un cotonio. Oppure, se il vivaista sa cosa vende, possiamo azzardarci a chiedergli un pero innestato su Fox 9. Direte che è sofisticato. No, è solo che il Fox 9 è stato selezionato a Bologna da un collega che ha insegnato per tanti anni a Udine, si chiama Bruno Marangoni. Bravo o fortunato che sia stato, ha selezionato un portinnesto del quale i turchi, grandi produttori di pere, sono innamorati e non solo loro. Possiamo per una volta mostrare un po' di amor patrio, anzi amor regionale, e chiedere un portinnesto selezionato da un professore dell'Università di Udine? Prenderemo due piccioni con una fava, acquisteremo un pero su un buon portinnesto e daremo fama al collega friulano che l'ha selezionato. In una delle scorse puntate della rubrica dedicata all'università e alle ricerche che le università stanno facendo sul territorio, avevamo parlato dei problemi delle api. Sorge quasi spontaneo chiedere: si possono selezionare api più resilienti? C'è un progetto SmartBees che viene seguito anche a Udine dal professor Francesco Nazzi, docente di apidologia ed apicoltura. Di cosa si tratta? È un progetto quinquennale che si è chiuso da poco e che riguardava per l'appunto il tentativo di selezionare api dotate di maggiore resistenza nei confronti dell'avversità a partire dalle api locali che si trovano in vari paesi europei. Noi abbiamo contribuito dando apporto alla ricerca che si interessava ai meccanismi di resistenza, ma anche provando ad avviare in Friuli questa attività di selezione con la collaborazione di alcuni apicoltori che hanno materialmente allevato delle api seguendo dei protocolli volti a gradualmente ottenere api sempre più resistenti nei confronti le molte avversità, in particolare le parassitosi. Queste super api che caratteristiche e qualità devono avere? Di continuare ad essere desiderabili per l'apicoltura e quindi di produrre del buon miele, ma contemporaneamente di riuscire a superare le avversità, in particolare resistere alle infestazioni da varroa. Non si rischia così di snaturare, mi passi il termine, la natura? No, è proprio il contrario, nel senso che la natura spontaneamente sarebbe andata nella direzione di selezionare api tolleranti, semplicemente perché quelle non tolleranti sarebbero scomparse, e quello che si può fare è di assecondare questo processo. A quando i primi sciami della super ape? Ci sono già in circolazione, ci sono già api che con molto meno fatica riescono a sopportare la varroa. Laddove hanno iniziato prima, ad esempio in Sud Italia, in Sicilia, ci sono api che se la cavano quasi senza trattamenti contro la varroa. E noi stessi nel nostro apiario di monitoraggio abbiamo famiglie che sono molto più resistenti nei confronti della media, e quindi che vuol dire che in buona sostanza superano meglio le avversità producendo altrettanto miele delle altre. Porta la firma del grande paesaggista inglese Russell Page il parco di Vistorta, un vero giardino d'autore che ci descrive Franca Merluzzi. Vistorta è una piccola località poco distante da Sacile, raggiungibile a piedi e in bicicletta, che racchiude tra grandi estensioni di campagna coltivata l'antico borgo, un'elegante villa con pertinenze ristrutturate e un meraviglioso parco. Al centro di una tenuta agricola a certificazione biologica di 220 ettari, di cui 40 a vigneto, la villa, sorta nell'Ottocento, è da sempre molto amata dalla famiglia proprietaria di origini veneziane, i Brandolini d'Adda. Il parco fu ridisegnato tra il 1963-65 dall'architetto paesaggista di fama internazionale, l'inglese Russell Page, un vero mito. A Vistorta giungono infatti molti esperti del settore, ma anche altri visitatori attratti dalla bellezza del contesto di 7 ettari entrato a far parte della rete dei grandi giardini italiani. In accordo con i proprietari, Page ingrandì la superficie a parco e per aumentare l'umidità del terreno utilizzò l'acqua di una canalizzazione per uso agricolo. Riprendendo il tema della peschiera, già presente come in molte ville venete, realizzò altri 4 laghi contigui, ampi e curvilinei. Scelse nuove piante, tra cui bambù e varie specie arboree piantumate in file e a gruppi, a creare quinte e profondità, mescolando conifere, criptomerie, sequoie, tassi e tassodi e latifoglie, aceri, tigli, platani, faggi, querce, salici. L'effetto specchiante dell'acqua, forme e colori delle chiome nelle diverse stagioni, delle piante secolari assieme a quelle degli alberi più giovani, rendono indimenticabile il luogo. La bellezza è anche nelle fioriture accanto alla villa, rose, iris, peonie e pure orchidee. Alla collezione di specie rare è riservato un posto speciale nella Grande Serra. Di grande fascino anche il giardino d'inverno, ricavato negli anni 60 da un vecchio porticato ornato da piante esotiche. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Mercato poco attivo e prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,80 e 18 euro il quintale, IVA esclusa. Il frumento tra 19,90 e 20,20, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 17,50 e 18 euro e la soia tra 41,90 e 42,20. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 1,90 euro e la soia di 8,80 euro il quintale. Le contrattazioni ortofrutticole di Udine sono in una situazione di stanca, con prezzi stabili. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate da 1,20 a 1,30 euro al chilo IVA esclusa. I finocchi e i cavoli tra 0,80 e 1,20, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1 euro, quello di Treviso precoce tra 0,90 e 1,40, il variegato palla tra 0,90 e 1 euro, i carciofi a 0,95 il pezzo, i kiwi a 2,50 e 3 euro, le mele golden tra 0,80 e 1,50, i cachi tra 1,30 e 1,40, le clementine tra 0,80 e 1,80, i mandarini tra 1,50 e 1,60 e le arance da 90 a 1,60. Nel settore della pesca l'andamento è precario, causa le condizioni meteo non favorevoli, ma i prezzi sono stabili. Alla cooperativa San Vito di Merano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 15 a 25 euro il chilo IVA esclusa, le ombrine da 7 a 18, i cefali da 2 a 5, le sogliole da 4 a 20, le seppie da 5 a 10, i calamari e i calamaretti da 12 a 17, le canocce da 2 a 9, le passere da 11 a 14, le capesante da 11 a 15 e i rombi da 25 a 30. Infine mercato stabile nel comparto degli avi cunicoli con i polli a terra pagati tra 1,12 e 1,14 euro al chilo IVA esclusa, i tacchini maschi tra 1,41 e 1,43, le anatre tra 2,30 e 2,34, i capponi natalizi tra 3,65 e 3,85, i conigli oltre 2 chili e mezzo tra 2,44 e 2,50, i nostrani tra 5 e 5,20. E con il previsore dell'Osmer Arpa Arturo Puccillo diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. La profonda saccatura responsabile del maltempo di questo fine settimana continuerà a interessarci anche nei prossimi giorni. Fino almeno a giovedì, infatti, la vasta depressione con aria fredda in quota si manterrà sull'Europa e sull'Italia, facendo fluire correnti umide dal Mediterraneo e a tratti del Nord Africa. Lunedì avremo una giornata con nuvolosità variabile e la possibilità di qualche rovescio sparso, anche temporalesco, più probabile al mattino e sulla fascia prealpina, mentre sulla costa avremo più sole. In montagna potrà esserci qualche nevicata in genere debole fino a 700 mm di quota, temperature massime fino a 12-13 gradi. Martedì la depressione formerà un minimo secondario sul Tirreno, che determinerà un altro fronte con correnti meridionali molto umide. Soffierà bora moderata in pianura, mentre sulla costa oscillerà tra scirocco e bora sostenuta. Avremo precipitazioni da abbondanti a intense su tutta la regione, con neve oltre 700 metri sulle Alpi, 1000 sulle Prealpi. Mercoledì avremo cielo nuvoloso con schiarite più ampie sulla costa, dove soffierà borino e qualche precipitazione sparsa, in genere debole o moderata. Giovedì variabile, senza precipitazioni significative. Venerdì, correnti atlantiche potrebbero portare un altro fronte sul centro Italia e sulla regione potrebbe soffiare bora sostenuta, con piogge più probabili sulla costa. Le temperature in pianura rimarranno per tutta la settimana tra i 2 e i 12 gradi. Anche nei giorni successivi il tempo rimarrà incerto con correnti atlantiche, ma come di consueto vi invitiamo comunque a seguire gli aggiornamenti a cuore di Osmer Arpa sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Termina qui la puntata. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano: a San Nicolò el fret al dis, soi cacumò, ovvero a San Nicolò il 6 dicembre il freddo dice eccomi qua. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è Vita nei Campi. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Maria Spezia e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.